30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il primo viaggio in Asia di Barack Obama dura 9 giorni, durante i quali il presidente americano visiterà 4 nazioni, incontrando tutti i principali leader della regione, dall'imperatore giapponese Akihito al presidente indonesiano Susilo Bambang. La delegazione americana farà tappa in Giappone, a Singapore e poi in Cina e Corea del Sud, prima di tornare a Washington il prossimo 19 novembre. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Come avete sentito nel lancio, un viaggio importante dal Giappone a Singapore, la Cina alla Corea del Sud. 9 giorni in Asia per il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Sul tavolo vecchie alleanze, nuovi equilibri di potenza. Le basi americane nel Pacifico che agitano l'opinione pubblica nipponica, gli accordi commerciali che tendono i rapporti con la Cina, la minaccia coreana e il riarmo accelerato di Pechino, ma anche il dialogo con il mondo musulmano che dopo il discorso per la riconciliazione del 4 giugno scorso al Cairo affronta una verifica nell'incontro con il presidente indonesiano a capo del più grande paese musulmano dell'Asia. Tutto questo naturalmente senza dimenticare il dossier ambientale, sul quale il presidente intende imprimere una sua linea nel solco della green economy. Mario Platero segue il viaggio asiatico di Barack Obama e noi lo raggiungiamo dunque a Tokyo. Anzi, esattamente dove, Mario? Buonasera innanzitutto. Dunque Gigi, sono a Cantei Palace, che è la residenza e ufficio anche del primo ministro giapponese, una residenza relativamente nuova, appena da qualche anno, devo dire straordinaria, una costruzione molto moderna ma che rievoca anche così la tradizione culturale architettonica delle vecchie pagode giapponesi, anche se le linee di disegno rievocano anche quelle di Frank Lloyd Wright. Infatti l'architetto che per primo disegnò questo palazzo Shimonoto è appunto un allievo di Frank Lloyd Wright. Palazzo, scusate se mi perdo in descrizioni, molto bello, di pietra, di legno, di vetro, linee pulitissime, un giardino con canne di bambù, statue dappertutto. Sono vicino a 2 statue, a 2 sculture di pinguini con un uovo che si rompe, l'uovo del pinguino, quindi sul piano simbolico una costruzione davvero molto molto bella e interessante. In questo palazzo incontra il premier Hatoyama. Hatoyama rappresenta il Partito Democratico che ha preso per la prima volta il potere in 50 anni, sostituendo il partito centrista che appunto ha governato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale praticamente ad oggi, o comunque poco dopo, e quindi è stata un po' una rivoluzione culturale, un cambiamento generazionale, non necessariamente un cambiamento totale, perché poi Hatoyama proviene da una delle grandi famiglie giapponesi. Nonno è stato il fondatore della Bridgestone, la grande casa di produzione di pneumatici. Il nonno stesso fu primo ministro, il padre fu ministro degli esteri, quindi poi il Giappone conserva così una certa tradizione, anche contraddizione e continuità anche nel cambiamento. Però Hatoyama ha fatto una campagna elettorale, è stato eletto, ricordiamo, lo scorso agosto, in cui ha promesso varie cose: un recupero di una forte autonomia giapponese, uno sguardo molto più marcato sul territorio asiatico e quindi meno su quello del Pacifico, quindi delle relazioni con gli Stati Uniti. Soprattutto ha promesso una linea nuova su Okinawa. Ecco, a proposito di simboli e di luoghi e di evocazione anche della storia, ti vorrei portare subito un contributo audio. Okinawans held a rally in Ginawan City today and adopted a resolution calling for the closure of the U.S. Futenma Air Station. They are demanding that the base be moved outside the prefecture, despite an Quello che avete sentito, quello che abbiamo sentito insieme, è il suono di una protesta che giunge dal sud del Giappone. La popolazione di Okinawa protesta contro la permanenza della base americana, appunto, nel sud del Giappone, e ci ricorda di fatto un grande nervo scoperto nelle relazioni tra i due paesi. Sì, direi che è una delle storie più complicate, forse è l'argomento di discussione più complesso fra Stati Uniti e Giappone in questo momento, perché primo ministro Hatoyama, Yukio Hatoyama, ricordiamolo, eletto in agosto, ha corso una campagna elettorale sulla falsariga dell'autonomia del Giappone, di un recupero dei suoi valori, della sua visione più asiatica che pacifica, e soprattutto ha promesso di evacuare gli americani dalla base di Okinawa. Questo è un problema perché nel 2006 Stati Uniti e Giappone hanno firmato un accordo per una ristrutturazione delle basi, quindi per uno spostamento di una delle basi più importanti a Okinawa, nel centro di Okinawa, in una zona molto più rurale, e sulla base di quell'accordo gli Stati Uniti si sono mossi, prevedevano anche lo spostamento di circa 8.000 soldati Marines all'isola di Guam. Ecco, tutto questo viene rimesso in discussione, è stato oggetto di tensioni forti anche quando ci sono state le visite di Hillary Clinton e poi del segretario al tesoro Gates, e questo ovviamente è un elemento di discordia. Però io credo che alla fine su questo ci sarà, fra virgolette, la pace, perché non è nell'interesse di nessuno rompere su questo punto, quindi ciascuno cercherà in qualche modo di abbozzare per portare avanti le rispettive posizioni. Ricordiamolo, il Giappone è in un momento piuttosto delicato, lo yen è molto forte nei confronti del dollaro, le esportazioni vanno male, la Cina sta superando Tokyo, Pechino sta superando Tokyo un po' su ogni fronte, quindi da una parte la missione di Obama sarà quella di offrire la spalla a Hatoyama, dargli la sicurezza dell'alleato di sempre, dall'altra sarà anche quella però di limitare ben chiaramente quelli che sono i perimetri in cui l'autonomia del nuovo Giappone, fra virgolette, potrà espandersi. Come ci raccontava Mario Platero, Okinawa è di fatto una ferita nella storia nipponica che pian piano si diluisce da quello che era il vero e proprio viceré McCarthy, ma che non di meno significa il retaggio della Seconda Guerra Mondiale. Okinawa e naturalmente anche Hiroshima. Obama ha parlato della volontà di pregare in questi luoghi, ma non sarà probabilmente possibile in questo viaggio. Non in questo viaggio. L'anno prossimo sarà un anno importante per il Giappone, sarà il 60° anniversario della sottoscrizione degli accordi di pace di San Francisco, sarà il 50° anniversario dalla firma di un accordo, di un trattato di difesa reciproca con gli Stati Uniti, soprattutto l'anno prossimo il Giappone sarà l'ospite dell'APEC, quindi Barack Obama tornerà l'anno prossimo in occasione di quest'anno importante, di varie ricorrenze, è quasi certo che Barack Obama andrà a visitare forse Hiroshima, ma forse anche Nagasaki. C'è una ragione specifica: Nagasaki è stata l'ultima città dove è stata usata la bomba atomica, Hiroshima fu bombardata per prima, allora alcuni dicono è meglio andare sul piano simbolico a Nagasaki, dove fu colpita dall'ultima bomba nucleare, proprio per ricollegarsi a quella sua dichiarazione che fece nella Repubblica Ceca, quando disse che gli Stati Uniti avrebbero cercato l'opzione zero sul piano nucleare. La memoria, dunque, il dolore, la storia del Novecento e il ruolo degli Stati Uniti. Già, perché se citando Hiroshima e Nagasaki evochiamo la grande campagna militare nel Pacifico dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbor, oggi parliamo del posizionamento, del ruolo che le basi americane hanno e che naturalmente il presidente, il 44esimo presidente degli Stati Uniti, intende avere. In che modo? Nei prossimi giorni affronterà l'ASEAN, quindi questa riunione di 10 stati, uno dei quali molto importante è l'Indonesia. Vorrei chiedere a Mario Platero allora quale può essere la politica di Barack Obama rispetto a questo grande paese, lo ricordiamo, 220 milioni di abitanti, 90% musulmani. Sei mesi nemmeno più tardi dal famoso discorso del Cairo del 4 giugno scorso, appunto, il discorso della riconciliazione. Ma Dunque, in Indonesia di nuovo c'è in qualche modo per Barack Obama un aspetto un po' più rassicurante rispetto a quello del Giappone, e cioè un aspetto di continuità. È stato rieletto questa volta il presidente Yudo Yono, che è amico dell'America. Ricordo di aver visitato l'Indonesia con il presidente Bush in passato, e direi che le relazioni fra i due paesi dal punto di vista istituzionale sono state molto più in sintonia di quanto non fossero magari con altri paesi. Yudo Yono è molto forte, ha vinto molto bene. Qualcuno critica la formazione del suo gabinetto di ministri perché alla fine ha dato posizioni importanti a rappresentanti politici che non sono dei tecnici, che non conoscono bene le questioni internazionali, però Yudo Yono si è riservato anche il diritto di nominare ai ministeri più importanti dei tecnici molto bravi, che conoscono gli affari internazionali, che hanno lavorato nel contesto internazionale, che quindi offrono garanzie di sicurezza. Per cui direi che questo incontro bilaterale che ci sarà a Singapore con Yudo Yono molto probabilmente rappresenterà, così esprimerà la linea della continuità. Vorrei sollecitarti su un tema più caldo, che è quello della Corea del Nord e della complessità dei rapporti con questo paese. Non appena Barack Obama ha messo piede in Giappone, è uscita un'agenzia ovviamente di Pyongyang che dice che la Corea userà tutti i mezzi militari a protezione della sua frontiera marittima. Questo è, come dire, un segnale in qualche modo di benvenuto, il riferimento ovviamente alle tensioni con la Corea del Sud, che sarà di fatto l'ultimo paese visitato da Barack Obama. Certamente tensioni, la retorica di Pyongyang la conosciamo, è una retorica per alcuni vuota, perché poi vengono sparati ogni tanto dei missili, ci sono queste minacce, c'è sicuramente la tecnologia per costruire le bombe atomiche e per avere le bombe atomiche, ma è un paese, quello della Corea del Nord, che è totalmente svuotato, indietro, non è riuscito a tenere il passo come hanno fatto altri ex paesi comunisti con le realtà economiche internazionali, un paese poverissimo, disastrato, quindi direi è un paese in difficoltà che spara roboanti dichiarazioni che poi alla fine impediscono di andare avanti nel dialogo che più volte con il gruppo di contatto si è cercato di portare avanti, a cui partecipano a questo gruppo di contatto, ricordiamo, la Cina, la Russia, quindi non ci sono soltanto gli Stati Uniti. E dunque sarà una tappa importante quella di Seoul, perché si affronterà nuovamente da una parte la questione politica, appunto con la necessità di convincere questa Corea del Nord a fare il famoso passo in avanti che continua a non fare verso il disarmo nucleare, a fare il famoso passo in avanti verso così una riconciliazione con la Corea del Sud, un primo passo in avanti che dovrebbe portare nelle speranze di tutti a una riunificazione, chissà quando ovviamente, ma ci sarà anche un aspetto economico molto interessante, perché c'è la questione del cosiddetto Free Trade Agreement, l'accordo del libero scambio. Gli Stati Uniti avevano avviato un rapporto con la Corea del Nord, la Corea del Sud, scusate, per creare un'area di libero scambio bilaterale, e subito dopo si agganciarono gli europei, dopodiché gli Stati Uniti ebbero un piccolo problema perché le esportazioni coreane erano molto forti, andavano molto bene, e quindi ci furono alcune proteste da parte di gruppi di lobby negli Stati Uniti, quindi il processo rallentò. Invece è già quasi arrivato a destinazione quello di creare un'area di libero scambio con l'Europa. Dunque un contesto economico al di là di quello politico per il viaggio di Obama in Corea del Sud, quello cioè di avanzare rapidamente in un momento molto difficile, ricordiamo, per l'economia americana, soprattutto per l'occupazione americana, avanzare questa ipotesi, questo accordo di libero scambio. Sarà molto interessante vedere come il presidente riuscirà a bilanciare questa sua doppia missione: da una parte dare l'idea di proteggere gli interessi dei lavoratori americani che sono minacciati da paesi così dell'Estremo Oriente che continuano a esportare verso gli Stati Uniti, dall'altra quella invece di promuovere la tradizione dell'area di libero scambio che gli Stati Uniti vogliono da sempre creare un po' in tutto il mondo. E naturalmente questo discorso ci porta all'ultima tappa, che non è l'ultima formalmente, ma l'abbiamo tenuta perché la riteniamo anche la più importante. 3 giorni in Cina, partendo da Shanghai e poi a Pechino. La grande sfida a Oriente di Barack Obama si comincia a giocare in questi 3 giorni cinesi. Quali sono le aspettative? Dunque, ovviamente certamente vi sono interessi divergenti sotto molti punti di vista, c'è il problema di Taiwan, c'è un'escalation militare della Cina che va al di là di quello che gli Stati Uniti vorrebbero vedere, ci sono dei problemi economici con i cinesi che hanno sottoscritto centinaia di miliardi di obbligazioni buoni del tesoro americano, quindi investendo in dollari con un valore del dollaro che è crollato negli ultimi mesi, una crisi finanziaria che comunque viene in qualche modo addebitata agli Stati Uniti, una crisi finanziaria mondiale, e dunque ci sono ovviamente molti elementi di tensione. D'altra parte ciascuno ha bisogno dell'altro, non vedo una visita che in qualche modo possa portare a qualche cosa di nuovo, e intendo soprattutto sul piano economico, cioè alla fine i cinesi continueranno a comprare buoni del tesoro americani, non avranno fretta a cercare di conquistare un ruolo importante come valuta internazionale per lo yuan, gli Stati Uniti accetteranno che lo yuan resti agganciato al dollaro e quindi non chiederanno una immediata rivalutazione della valuta cinese, insomma il modello pre-crisi in cui la Cina esportava negli Stati Uniti e allo stesso tempo coi proventi di queste esportazioni comprava buoni del tesoro americano, in qualche modo finanziava il debito americano, consentendo poi agli americani stessi e ai consumatori di comprare, ecco, è un modello che seppure in forma molto più moderata per le ovvie conseguenze della crisi economica, credo che come impostazione strategica continuerà, nessuno dei due può diciamo permettersi il contrario. Un'ultima considerazione, Mario, il Tibet. Obama, lo ricordiamo, ritorna in Cina perché c'è già stato da senatore, aveva assunto delle posizioni su il Tibet e sulle minoranze e molti si aspettano che dica qualcosa. Dall'entourage di Obama emerge qualcosa in proposito? No, per ora non abbiamo avuto delle anticipazioni chiare su questo, ma ricordo, una cosa è essere senatori, una cosa è essere presidenti degli Stati Uniti d'America, quindi Obama, il pragmatico come amo definirlo, secondo me terrà un profilo più basso, ricorderà naturalmente, come hanno sempre ricordato i suoi predecessori nel momento in cui si sono trovati a viaggiare in Cina, l'importanza di garantire diritti civili, libertà di espressione, di religione e così via, ma saranno delle dichiarazioni più marginali che altro. Ci sarà, devo dire, un incontro molto interessante a Shanghai, un cosiddetto town hall meeting che Obama ama e su cui ha costruito poi la sua corsa elettorale. Bene, questo town hall meeting che si terrà a Shanghai sarà con la nuova leadership politica cinese. Ricordiamolo, anche in Cina la leadership è ormai arrivata così alla fine del suo mandato. Hu Jintao tra il 2012 e il 2013 dovrà lasciare e quindi si presenterà in Cina una nuova leadership politica. Ecco, questo sarà un incontro diretto molto interessante in cui si affronteranno alcune delle questioni più calde, sarà molto molto importante vedere come questa nuova leadership si esprime, perché ricordiamolo, la Cina è straordinariamente nazionalista, orgogliosa e dunque cercherà di difendere fino in fondo i suoi interessi e la sua storia. Io ringrazio Mario Platero, lo ricordo, con noi dal Giappone. Continuerete a seguire il viaggio del Presidente degli Stati Uniti attraverso i suoi racconti sulle pagine naturalmente del Sole 24 Ore, attraverso Radio 24 e sul web. Sono 9 giorni, ormai 8, visto che siamo a sabato, che possono cominciare a costruire anche il profilo internazionale e naturalmente quello in particolare in Asia è estremamente importante del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Siamo in conclusione, vi ricordo solamente radio24.it per sentire e risentire questa e le altre trasmissioni di Radio 24. Un ringraziamento a Peter Bescapè oggi in regia con me, a voi l'augurio di un ottimo fine settimana.